9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 24 di febbraio, e il tema che abbiamo posto alla vostra attenzione oggi è uno di quelli su cui in maniera ricorrente nel tempo, è una specie di fiume carsico, si immerge e poi ricompare nella vita pubblica italiana. Uno dei compiti fondamentali dell'informazione è quello infatti di andare a vedere come viene amministrato, a chi, con quali criteri gestito, a chi viene locato e a chi eventualmente dismesso quando ceduto il patrimonio immobiliare pubblico, pubblico di soggetti anche a titolo diverso compongono questo recinto. Avete sicuramente, o comunque molti di voi immagino, fatto caso che nelle ultime settimane nuove vicende hanno riconfermato un eterno presente ricorrente nelle cronache italiane. Si chiamano affittopoli le serie di inchieste che vengono fatte dai giornali e che regolarmente ritirano fuori casi delicati e scottanti in cui pezzi di patrimonio immobiliare pubblico vengono affittati ad amici degli amici con canoni che regolarmente si scoprono essere ben diversi da quelli di mercato, oppure magari anche dismessi a prezzi di favore, e anche in quel caso quello che conta è l'economia delle relazioni, non quella del merito. E in queste settimane, lo sapete, i casi del Più Albergo Trivulzio hanno nuovamente dominato le cronache a Milano, nel nord e tutta Italia. Libero poi, il quotidiano diretto insieme da Beppietro e Vittorio Feltri, ha tirato fuori una nuova lista ieri, aggiuntiva oltre a quella del Più Albergo Trivulzio, con Lena Sarco, e quindi ci ha messo del suo. E oggi facciamo un pochino il punto su questa questione, perché sembra una cosa, ripeto, eterna, che conferma i limiti di come si gestisce il pubblico nel nostro paese. Da una parte è inevitabile che abbiano grande eco sui giornali le liste di coloro che vengono poi ammessi a canoni che vengono, insomma, significativamente abbassati, ed è ovvio che quindi ci sia nei loro confronti una specie di giustizia sommaria attraverso l'esposizione all'udibile della gogna mediatica. È accaduto con Carla Fracci, ieri per esempio Libero ha rifatto i conti di quanto avrebbero risparmiato alcuni di coloro che hanno avuto i canoni nei posti migliori di Milano, degli appartamenti del Più Albergo Trivulzio. Di Carla Fracci Libero per esempio ha calcolato che con i suoi 187 metri quadrati vede la spiga 5 e in 10 anni pagando 460.000 euro, non poco insomma, ma comunque un po' meno, parecchio meno di quello che avrebbe pagato in termini di mercato, ha risparmiato 290.000 euro in 10 anni. E così Renata Colorni, intellettuale molto nota e apprezzata, grandissima traduttrice dal tedesco di fenomenali autori della letteratura e della filosofia tedesca, che ha un appartamento di 150 metri quadrati in via Santa Marta 15, quindi qui anche qui pieno centro di Milano, in 10 anni avrebbe risparmiato col canone 273.000 euro, e così via. In altre parole, diceva Libero, ci si compra una casa con i soldi risparmiati. Al di là di tutto questo, siccome io non amo fare solo, non amo appunto fare trasmissioni di facile demagogia, perché mi rendo conto che è giusto che vi indignate, però insomma, un ascoltatore ieri mi ha mandato una lettera che mi ha molto colpito, e questo è uno dei temi che vorrei poi chiedere di affrontare insieme agli ospiti che ora vado a presentarvi. Ci scrive Enrico Fantoni, dice: relativamente alla mala gestione del patrimonio immobiliare del Più Albergo Trivulzio, e lo stesso a mio giudizio vale per tutto il patrimonio immobiliare pubblico, ci scrive Enrico Fantoni, dice: nessuno ha evidenziato la inevitabilità della mala gestione, anche se in mano a persone oneste. Mi spiego, prosegue Enrico Fantoni. Se per una legge nominata equo canone gli affitti vengono regolati con canoni obbligati e sottomercato, è pressoché inevitabile che gli immobili vengano dati agli amici degli amici anche senza dolo. Se con delle procedure farraginose gli immobili vengono amministrati con aste, è inevitabile che i prezzi spuntati siano inferiori a quelli di mercato anche in assenza di dolo per aste preconfezionate. In tutte le aste, anche quelle fallimentari, i risultati sono sempre inferiori alle quotazioni di mercato. Dopo Mario Chiesa, ricordate, no? Il manager, il famoso Mariuolo, di cui disse Craxi, da cui poi partì con le sue indagini su di lui manipolite. Dopo Mario Chiesa, continua Enrico Fantoni, il consiglio del Più Albergo Trivulzio è stato rinnovato con persone degne, a giudizio di molti, di quasi tutti. Nulla è però cambiato, a dimostrazione della inevitabilità sopra enunciata. Che fare? È semplicissimo. la sua conclusione, che mi interessa molto. Il pubblico o il parapubblico deve tenere e gestire solo gli immobili destinati ai più stretti fini funzionali. Tutto il resto va venduto al miglior offerente, subito. I lasciti vanno accettati, certo, con la clausola di alienazione entro un termine ragionevole, ma breve. Fantasia? No. Per evitare la mano morta del concordato, nel 1929 tra Santa Sede e Stato italiano, fu stabilito che tutte le eredità di immobili non funzionali agli usi propri della Chiesa dovevano essere alienati. Ha funzionato. Basta copiare. Posso dirvi che secondo me Enrico Fantoni ci indica la strada rispetto a un patrimonio immobiliare pubblico che resta molto elevato. Posso dirvi e ricordarvi, e ho finito, che secondo le stime del Tesoro di 2 anni fa sul totale dell'attivo pubblico dismissibile, quindi non sto parlando di Colosseo e delle solite storie, l'attivo pubblico dismissibile superiore ai 500 miliardi al netto del valore delle quotazioni quote di controllo delle società, delle grandi quotate, Eni, Enel, Finmeccanica, più o meno una 70 miliardi, al netto dei 40 miliardi circa che va le concessioni, oltre 350 miliardi era stimato il patrimonio pubblico residuo dismissibile, di cui per 4/5 nelle mani degli enti locali, e il più Albergo Trivulzio in qualche maniera rientra esattamente in questo perimetro. Oltre 25 punti di PIL, tanto per parlare di come si potrebbe abbattere il debito pubblico. Fine della mia introduzione, quindi ho voluto dire non solo demagogia, ma anche riflessione sui valori immobiliari, su come si gestiscono i patrimoni e gli ospiti che ci accompagnano in questo tragitto. Io ho in studio di fronte a me, lo ringrazio molto per dedicarci il suo tempo, Enrico Bronzo, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno Enrico. Tutti. E abbiamo collegati poi Francesco De Dominicis, giornalista di Libero. Buongiorno De Dominicis. Buongiorno Giannino e buongiorno agli ascoltatori. È una persona che mi sta molto a cuore e che vorrei spotticchiare un po', perché ho in mano un suo articolo del 2003 sul Corriere della Sera, in cui dice: immobili comunali, vendete in corso, tutto andrà a posto. Non lo sfotto perché è responsabile, ma perché lo sfotto perché è l'eterna illusione di noi mercatisti. E Giancarlo Pagliarini, stato ministro, ora è consigliere comunale di Milano, è stato assessore al demanio a Milano con la giunta Albertini, ora è anche candidato sindaco, e appunto il pezzo del Corriere della Sera che ho in mano è relativo a dichiarazioni che rilasciava allora nella sua qualifica di assessore. Buongiorno Pagliarini. Quella, salve, buongiorno a tutti. E Basilio Rizzo, il presidente del gruppo consigliare a Milano Uniti con Dario Fo. Buongiorno Rizzo. Buongiorno. Io inizierei proprio da Pagliarini e da Rizzo. Pagliarini, qui non è andato a posto niente. Che mi dice lei? Questo pezzo qua del Corriere, vendita in corso, tutto andrà a posto, quando mai? Sì, no, assolutamente. Il punto, attenzione, la Fondazione Civicum ha appena fatto uno studio sui bilanci comuni italiani, è venuta fuori una cosa abbastanza tragica, cioè circa il 20% di tutti i soldi che entrano nelle casse dei comuni italiani viene fuori da vendita di patrimonio, e nessuno che dice mai: scusate, ma quando abbiamo venduto tutto poi che cosa facciamo? Quando non abbiamo più niente da vendere cosa succede? Cioè, l'ha detto molto, molto giustamente prima, tutto il patrimonio alienabile ormai è degli enti locali. Perché? Perché lo Stato ha già venduto tutto. Quello che si sta cercando di fare è coprire le spese correnti vendendo il patrimonio. E nessuno che si chiede: ma quando non abbiamo più niente da vendere, cosa che facciamo? Salta tutto per aria? Infatti a quei tempi lì, vabbè, ho detto vendiamo, ma impegniamoci a utilizzare i soldi che incassiamo per investimenti nel patrimonio, non per le spese correnti. La tragedia è che i comuni italiani coprono le spese correnti vendendo il patrimonio, dopodiché quando abbiamo più un tubo da vendere andiamo a vivere nelle grotte. E vabbè, un momento un po', lei adesso sta spostando per il focus, perché facendo così la faccenda diventa le risorse dei tagli di questi anni per il patto di stabilità interno ai comuni, che è una questione, ma con quello di cui stiamo parlando non è la questione focale, perché la mia risposta sarebbe: i comuni adeguino piante organiche, spese e impegni alle loro risorse autonome, a quello che possono ottenere con i trasferimenti in via di diminuzione per il patto di stabilità. Speriamo nel federalismo, ma questa è la mia soluzione, no? Perché altrimenti dovrei dire: non cediamo neanche il patrimonio perché serve a coprire le spese correnti. È un problema serio, ma la questione è comunque che, come ci hanno dimostrato analisi serie in questi giorni, la gestione del patrimonio immobiliare, l'avvaloramento negli anni rispetto alla media del mercato quando è nelle mani pubbliche, Enrico Bronzo, mi pare di capire che lasci fortissimamente a desiderare. Cioè, è una questione solo di amici e gli amici che amministrano? No, c'è evidentemente qualche cosa nel sistema di gestione pubblico che induce a ottenere risultati di questo tipo. Come mai? Guarda, sul fronte compravendite il problema è la stima dell'immobile. In queste aste pubbliche si utilizza come fonte l'Agenzia del Territorio, che per tutti gli addetti ai lavori è notorio, ha stime molto più basse rispetto ai valori di mercato. Nell'ultima rilevazione del Trivulzio è stata quantificata intorno al 15%. Il problema è che 15% la sottostima rispetto ai valori di mercato. Sì, il problema è che è la fonte che viene utilizzata sempre dagli enti pubblici, e il problema è questo. In Francia, per esempio, ci sono i notai che si fanno carico della stima dell'immobile in base ai rogiti, probabilmente rogiti veritieri al 100%, e quindi ci sono i valori effettivi degli immobili. In Italia ancora i notai non si assumono questo onere, che darebbe molta trasparenza al mercato. Basilio Rizzo, torniamo invece anche all'aspetto politico, perché poi la vicenda del Più Albergo Trivulzio ha riportato, diciamo così, agli onori o disonori delle cronache, ma insomma all'attenzione delle cronache, aspetti abbondantemente, anzi più a sinistra che a destra per una volta, ma insomma diciamo bipartisan, della maniera poi di avere accesso a questi immobili pubblici con canoni di favore. C'è stato il caso di Cinzia Sasso, la compagna di uno del candidato Pisapia per il centro-sinistra al comune per il dopo Moratti. Io sono di quelli che pensano che Pisapia non c'entra niente con la casa della fidanzata, ma io ragiono così, no? non ci posso fare niente. Naturalmente sui giornali tutto prende una piega diversa. Le chiedo, lei come presidente del gruppo consigliere Uniti con Dario Fo a propria volta ha difeso Pisapia, ma nella realtà questa il reticolo di prezzi e di immobili locati a basso prezzo del Più Albergo Trivulzio per l'ennesima volta non dimostra che c'è qualcosa di sbagliato nel fatto che questi immobili pubblici vadano nelle mani di amici di chi in pubblico li amministra, pur avendo un patrimonio di onestà, come tutti riconoscevano a chi gestiva il Più Albergo Trivulzio? Che cosa è che non funziona secondo lei? Tanto mi permette di dire dove lei ha tratto il fatto che questa volta sono stati, diciamo, presi con le mani nel sacco più persone di sinistra che di destra. No, ma non le mani nel sacco, io non parlo di mani nel sacco, perdoni. Io ho detto che nelle privilegi maggiori per la sinistra, non lo so da che percentuale ha fatto lei, ma comunque questo. Va bene, ritiro. Ecco, ho non detto, voglio neanche intervenire su questo. Il problema è proprio stare in manico, cioè nel come vengono amministrati questi beni. Io credo che comunque, perdoni, perché sennò poi gli ascoltatori è chiaro che per come i giornali presentano gli intellettuali, gli artisti eccetera eccetera, mi dispiace fare questa osservazione, però intellettuali che sono ascrivibili a una certa area figurano come amici da una parte piuttosto che dall'altra. È sbagliato, sì, lo ammetto, però questo è il criterio, non me lo sono inventato, perdoni, perché su tutti i giornali dice da settimane, no? Mi chiede da dove l'ho preso, io dico dalla Stampa, poi ritiro tutto dicendo è una cosa barbara. D'accordo. Benissimo, guardi, non interveniamo su questo perché poi lo giudicheranno gli ascoltatori. Io voglio dire che il problema è che non c'è una regola, per me il problema fondamentale è la mancanza di una regola, cioè noi abbiamo, non sappiamo ancora, per esempio nel Più Albergo Trivulzio, quali sono i criteri attraverso i quali vengono attribuiti questi alloggi, e quindi c'è la discrezionalità. E quindi la discrezionalità passa attraverso i livelli di conoscenze individuali che talvolta diventano cerchie di politici, talvolta sono cerchie proprio di amicizie pure semplici fra persone, e quindi di cricche, se mi permette questo termine ormai abusato, mentre invece dal mio punto di vista si dovrebbe decidere: questo patrimonio è un patrimonio sociale, cioè sociale nel senso ampio del termine, di tutti, sì. Deve essere utilizzato per far funzionare meglio questo ospedale. E allora, quindi se decidiamo che una parte di questi alloggi devono servire, per esempio, al medico che deve essere presente a Milano, agli infermieri che non ci sono e non si trovano perché non hanno gli alloggi a prezzi ragionevoli, io non mi scandalizzo che vengano attribuiti. Quindi lei dice, innanzitutto il criterio prioritario dovrebbe essere quello dell'uso strettamente strumentale ai fini del Più Albergo Trivulzio o del tipo, esatto, di ente pubblico che è proprietario. Esatto, questa è la prima questione. La seconda è, se invece si decide che il meccanismo è fare reddito, sono d'accordo con quello che avete detto, perché ha detto Pagliarini, più per una rendita permanente piuttosto che per vendere, perché quando si è venduto, allora bisogna farlo con professionalità. In questo caso, dico io, il minimo sarebbe affidarne la gestione a qualcuno del mestiere, che non è naturalmente l'amministratore pro tempore più Albergo Trivulzio. Lo dico a maggior ragione oggi su Repubblica, c'è l'intervista al professor Emilio Trabucchi, che è stato appena giubilato, che era la guida del PAT, e nei confronti del quale è molto difficile elevare accuse di essere un vecchio partitante della Prima Repubblica, per essere chiari, che nell'intervista spiega alla domanda precisa di Oriana Liso di Repubblica, che dice: ma come mai voi non affidavate a un gestore tecnico il patrimonio? Come mai erano in due a decidere con criteri discrezionali? La risposta di Trabucchi è: io so che quando sono diventato presidente la situazione era già questa. Mi sono reso conto nel 2007, ha ragione, che non ero in grado di gestire un patrimonio così vasto. Abbiamo pensato sulla scia del Comune di Milano di affidare la questione a un fondo immobiliare. Siamo arrivati a commissionare uno studio preliminare, ma poi nelle riunioni, ogni volta che se ne parlava, l'argomento cadeva nel vuoto. Perché, chiede la collega, decidere sulle assegnazioni erano solo due persone? Risposta: io avevo una funzione di supervisione sulle pratiche, di quanto mi arrivavano i contratti, li firmavo, guardavo anche i nomi, ma solo dopo che la commissione aveva deciso. Cioè, la cosa di Trabucchi è: in realtà, decidendo con le commissioni, alla fine passano gli amici degli amici. Esatto. Lei invece sarebbe per gestori tecnici? Io sono per questo orientamento, che bisogna fare le cose con professionalità. Quindi secondo me bisognava separare la gestione dei beni immobiliari, dove ci vogliono i professionisti del settore, dalla gestione degli ospedali, dell'assistenza, e trovare il modo perché queste cose vengono fatte. Poi se è un gestore esterno, io non ho grossi problemi anche ad accettare questo. Il problema è sempre l'onestà e la correttezza delle persone che fanno questo lavoro. Soprattutto il fatto che non siano criteri discrezionali, ecco. Esatto, non ci devono. Il mio pensiero io lo traduco in questa battuta spesso, dico: quando abbiamo le regole non ci vorrebbero neanche le persone, basterebbe schiacciare un tasto di un computer e il computer decide a chi spetta. Bella idea sarebbe, solo che gli uomini sono imperfetti e sono pressoché fondamentali con le loro imperfezioni. Ma se mi permette una notazione che forse spiega come stanno le cose, lei quanto crede che varrebbe, sa che ci sono una specie di valori di incarichi che vengono attribuiti dalla politica in quel posto. Se il più Albergo Trivulzio fosse solo l'erogatore di servizi sanitari e assistenziali, non varrebbe niente. Il più Albergo Trivulzio e altri enti valgono in quanto sono detentori del potere di attribuire patrimoni immobiliari. In quanto hanno questo potere discrezionale che usano. Esatto. Appunto, è questo che bisogna togliere assolutamente. Perfetto. Pagliarini, secondo lei perché non si è riusciti a scremare la discrezionalità dei criteri di gestione a Milano? Ma questa è proprio la politica, mancano le procedure. Io una settimana dopo che ero assessore ho chiamato i giornalisti e ho detto: ragazzi, sapete cosa faccio? Non voglio più la secessione. Ho visto come è organizzato il Comune Milano, una disorganizzazione assoluta. E speravo che fosse solo il demanio, e lo spero ancora, però. Ed è rimasto così secondo lei? Sicuro. A questo punto, da quello che sento in commissione, è rimasto sostanzialmente così, perché in effetti la soluzione è giusta, siamo tutti d'accordo, ai fini funzionali ti tiene quel poco che ti serve, il resto lo devi dare a professionisti veri e con un incarico vero. Ma quello che manca nel pubblico, e a Milano in particolare, sono proprio le procedure, cioè procedure scritte. Nel demanio, ai miei tempi, si faceva quasi tutto sulla base di tradizioni orali, ma siamo matti. Io ho provato a chiedere procedure scritte, compagnia bella. Adesso, dopo, se mi mandi sul cellulare il tuo, ti mando il memo che ho lasciato quando sono andato via, l'ho dato anche a Basilio Rizzo, eccetera. Mancano le procedure scritte, mancano le procedure, le tecniche di controllo. A Milano sicuramente, ma temo anche in generale nel pubblico, l'ho visto anche quando ero al bilancio. Quando tu hai delle procedure non puoi fare il cavolo che vuoi, devi seguire le procedure, no? Mancano le procedure nel pubblico, e a questo punto ecco che il sottobosco ramana e combina guai di tutti i tipi. E tutto qui, mancano procedure, manca l'organizzazione. A parte che io eliminerei completamente il pubblico se possessi, tu lo sai benissimo. Ti faccio un esempio, giusto? La cultura mi hai sorpreso, perché io quando ho iniziato dicendo l'alienazione sono alla fine strumenti strumentali, tu hai difeso il fatto che poveri comuni costretti a vendere perché non stanno più sulle spese. Aspetta, però torniamo su questo un secondo. Perché prima della pausa della pubblicità ci tenevo anche a sia pur brevissimo intervento prima della pubblicità di Dominici, il giornalista di Libero, perché voi certo ci siete andati giù pesanti. letti in questi due giorni, perché il titolo di oggi è: rubano le case anche i ciechi a Roma, nella centralissima via Margutta, l'istituto dei non vedenti affitta ad appena un euro al metro quadrato e spunta l'ex segretario Di Occhetto. Ieri il titolo era: case regalate a Roma, i nomi dei raccomandati, e avete già ottenuto in un giorno che il ministro, l'ex ministro Castelli, debba mollare l'appartamento delle Nasarco, perché voi gli avete puntato il dito contro. Insomma, ci andate giù pesanti, eh? Beh sì, insomma, noi abbiamo ripescato una vecchia inchiesta che aveva negli anni scorsi toccato le Nasarco, e abbiamo scoperto che i nomi che erano venuti fuori qualche anno fa stavano ancora lì, quindi gli attuali membri del governo, il viceministro Roberto Castelli e il ministro Elio Vito, avevano tra gli altri avevano ancora case, diciamo, a prezzi particolarmente vantaggiosi, appunto, delle Nasarco. Il ministro Castelli, per esempio, è in una zona abbastanza di pregio a Roma, a Monteverde, con un appartamento di una ventina di metri quadri, pagava un canone di 600 euro al mese. Lui poi si è sempre difeso dicendo: beh, arrivavo a 750 con le spese. Fatto sta che poi alla seconda telefonata che gli abbiamo fatto nell'altro ieri, prima di uscire col titolo sparato in prima pagina ieri mattina, ci ha richiamato e ha detto: beh no, però sapete che vi dico, lascio l'appartamento perché tanto so come va a finire. Era ovviamente preoccupato per quello che era successo a Milano e non voleva finire nella gogna mediatica. Il ministro Vito invece si è difeso di più, ha detto che il suo è un caso diverso, però non ci ha fornito le cifre. Diciamo che è un po' storicamente anche più abituato di Castelli a essere esposto alla gogna mediatica, cioè c'ha un diverso tasso di reattività, per così dire. Allora, ripartiamo di qua, perché mi interessa capire le valutazioni di Domenici, che in realtà è un giornalista economico finanziario anche lui e non di cronaca, su patrimonio immobiliare a Roma, quando è gestito così, e intanto però pubblicità. Stiamo parlando delle varie diverse affittopoli, di quella nuova del Pio Albergo Trivulzio a Milano, dei controlli ex post che i colleghi di Libero hanno fatto sugli affittuari di favore nel patrimonio in Nasarco a Roma, e il motivo per il quale le relazioni e la discrezionalità continuano a dominare in molte delle gestioni dei canoni affittuari del patrimonio pubblico, da una parte, e dall'altra su come mai e se sia giusto che una parte così ampia, che è rimasta soprattutto nelle mani degli enti locali, di patrimonio immobiliare pubblico, abbia degli avvaloramenti che rimangono, a giudicare poi dai prezzi di cessione, molto più bassi rispetto a quelli del resto del mercato immobiliare. Anche se, mi diceva Enrico Bronzo, non è del tutto vero che poi quando si fanno le aste il meccanismo di cessione funzioni col prezzo al ribasso per il patrimonio immobiliare pubblico. Sì, in particolare nelle aste giudiziarie a casa abbiamo verificato che c'è un incremento medio del 15%, perché spesso da fallimenti si ha a che fare con immobili di un certo pregio e quindi c'è una certa competizione. Nell'elenco degli immobili del Trivulzio ci sono degli immobili che sono stati aggiudicati al prezzo base d'asta e quindi probabilmente non erano così in buono stato. Sì, altri invece sono stati acquisiti con un 15-20% di valore in più, ed alcune volte ci sono state anche delle aste deserte, ecco. Sentiamo qualche ascoltatore, iniziamo con Matteo, che ci chiama da Milano. Matteo da Milano, che impressione ha avuto in questi giorni leggendo le cronache del Pio Albergo Trivulzio? Buongiorno a tutti. Non sono stato tanto contento, essendo un cittadino che pagava l'affitto, poi si è comprato casa, eccetera, quando vede certe cifre in certe zone. Quello che io dico è: d'accordo con voi che è giusto valorizzare il patrimonio immobiliare e non venderlo o svenderlo, ma metterlo a reddito. Il problema, secondo me, è che se si dà in gestione a una società esterna, sì, si aggiunge un altro layer che deve comunque far profitto. Visto il patrimonio immobiliare di questi enti, secondo me si potrebbero strutturare con dei professionisti controllati, eccetera, sotto supervisione, con delle regole, come dicevano prima giustamente i vostri Pagliarini. Ospiti. Anche se di solito, guardi, il professionista interno nominato dal politico fa quello che dice il politico, perché è inutile, è così. Io per questo dico, l'affidamento della gestione dei patrimoni immobiliari, dice devono fare profitti, ma se sono grandi società di gestione immobiliare, sa, non è che spalmano con le tecnicalità e le procedure standardizzate di cui sono detentrici per fare il mestiere che è il loro core business, la parte di margine che devono realizzare nella gestione di quella parte di patrimonio immobiliare che gli affidi, non è che fanno il più dei loro utili da quello. Capisco che lei dice sì, ma introduciamo un livello improprio, però nella mia esperienza di osservatore di gestione di patrimonio immobiliare pubblici, un tecnico che risponde alla politica fa alla fine quello che vuole il politico, perché è il politico che lo nomina, è un po' così. Lei non pensa? Società non sia amica del politico. Sì, questo però se è una società di nome, guardi, è molto sì. Più complicato per lei passare, perché il danno che riceverebbe se fosse una società esterna di gestione immobiliare, in questo caso ad aver deciso l'elenco degli affittuari coi prezzi che abbiamo letto, con gli affitti al fratello di Montezemolo, insomma non è proprio esattamente il tipo di figura che ha bisogno di un aiuto dal patrimonio immobiliare pubblico, beh, avrebbero rischiato la faccia molto pesantemente con altri clienti. Naturalmente il diavolo si può annidare dovunque. C'è anche un ascoltatore che mi dice che io non dovrei fare trasmissioni così, perché è evidente che io sono amico di qualche amico che mi tiene qua, perché faccio schifo, parole sue, e quindi io devo rispettare l'opinione di tutti. E Matteo ci dice procedure e tecniche. Sentiamo invece Marco che ci chiama da Roma. Prego Marco, lei che pensa? Buongiorno, tanto volevo dirle che invece io la stimo moltissimo. No, non parliamo di questo, perché io do conto di chi mi critica con gli sms, perché penso giusto dare soddisfazione a tutti. C'è chi ritiene che io non faccia bene il mio mestiere, e io lo dico, non c'è nessun problema. Beh, non mi permettono neanche di rispetto, ma non per equilibrare. Venga al punto di oggi, Marco. Volevo dire che volevo raccontare una mia esperienza. Sono un iscritto alla Sarco e una decina d'anni fa ebbi l'idea di andare a chiedere, vivo a Roma, lavoro a Roma, di chiedere appunto di poter accedere a uno degli immobili in affitto dell'ente al quale contribuisco in maniera anche cospicua. Sì. E mi fu risposto, parlo di una decina d'anni fa, ridendo, ma chi conosci, chi ti manda, quasi prendersi in giro con questa mia assurda pretesa. Così era all'epoca ero ancora giovane, nel frattempo più di 10 anni fa devo dire, ci fu Tangentopoli, eccetera, eccetera. Oggi, 2 anni fa mi è nata una bambina, avevo esigenza di prendere un appartamento più grande, ho detto proviamo, ritorniamo al risultato. Risultato più o meno lo stesso, ho dovuto riempire una monolistica che all'epoca non esisteva, è valida soltanto per 6 mesi. Se nessuno ti chiama vuol dire che è decaduta e non conta nulla. E mi pare di capire che lei non conosca nessuno. Esattamente, e quindi l'esito è stato quello che è stato. Va bene, io la ringrazio la testimonianza e mandiamo in onda quello che ci ha detto Castelli quando, sorpreso a essere ancora affittuario a distanza di tempo dell'inchiesta di Libero, ieri la zanzara l'ha pizzicato. La prima cosa le chiedo subito, Castelli, lei è un raccomandato, cioè ha ottenuto questo appartamento da Elena Sarco, 700 euro a Monteverde, per quale motivo? Ma motivo molto semplice, io quando ho lasciato l'appartamento che abitavo a Regina Coeli per motivi di sicurezza come ministro della giustizia, ho cercato un altro appartamento, mi sono rivolto come si fa normalmente ad amici, agenzie e conoscenti, e un conoscente mi ha detto guarda che Elena Sarco affitta appartamenti a prezzi convenienti, per cui io ho chiesto a Elena Sarco, mi ha fatto dire 2 o 3 appartamenti. Ho detto questo mi interessa quanto volete, vogliamo tot, e tot gli ho dato, quindi se c'è al massimo qualcuno da rimproverare non è certo il sottoscritto, ma Elena Sarco che a quanto pare chiede poco per gli appartamenti che mette in affitto. Quando un ex ministro chiama Elena Sarco si può immaginare che magari ci sia, non dico un trattamento di favore, ma qualcosa io, del io genere. Io non l'ho no? chiesto, non ho chiesto un euro di sconto, nell'appartamento in cui abito è fatto di 50 appartamenti, sono quello che paga più di tutti. Ma è un brutto appartamento? Direi che è un appartamento medio-basso, una casa dignitosa ma medio-bassa. Penso che rispetto ai canoni di mercato spendo circa un 200-250 euro in meno. Però è curioso che lei abbia deciso di andarsene e il giorno dopo è uscita questa inchiesta sul Libero. Ha avuto qualche spiffero? Qualche no, io per la verità era già tempo che meditavo di andare via, perché non mi piaceva tanto questo appartamento, devo dire. E poi non è così conveniente come viene, ripeto, ci guadagno circa 200-250 euro al mese. Sì. quando è venuta fuori la storia del Trivulzio, ormai io sono vecchio del mestiere, ho detto di sicuro gli tirano fuori la storia del mio appartamento, per cui me ne vado, però diciamo che la cosa è diventata concomitante, avrei dovuto andarmene magari 3 giorni prima, però l'ho deciso ieri e ieri me ne sono andato. De Dominici, però invece oggi scrivete che altri sono un po' più restii, sia pure in ritardo a prendere atto delle critiche, a mollare. Di Mita si è comprato l'attico con 3 milioni di sconto. Sì, ma non soltanto lui, lo stesso Sirchia, ex ministro di governi di centro-sinistra della seconda metà degli anni 90, è uno di quelli che la casa dell'Elena Sarco dovrebbe averla riscattata, però anche qui le cifre non sono venute ancora fuori fino in fondo e si fa un po' fatica a scoprirle, quindi la sensazione è che probabilmente dei trattamenti di favore ci siano stati. E vale la pena segnalare che la cattiva gestione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza, come per quanto riguarda la Sarco, che è l'ente di previdenza degli agenti di commercio e dei promotori finanziari. La casa invece di Mita era dell'INPS, valore più o meno di mercato 6 milioni, avete acquisto 3 milioni. Allora diceva sì. Per quanto Elena Sarco poi adesso ha cambiato vertice, c'è una gestione diversa, però tutto quello che è stato fatto di sbagliato nel passato ha un'incidenza oggi e nel futuro sulle pensioni degli agenti di commercio e dei promotori finanziari, che ieri ovviamente si sono scatenati, ci hanno chiamato indignati, infuriati, chiedendoci di andare avanti, perché ovviamente c'è un effetto che magari è meno evidente, anche meno immediato per quanto riguarda l'Unione Pubblica, che però è sicuramente rilevante. No, come appunto chi ci ascoltava ha chiamato, ha scritto all'ente documentandoci, cioè io regolarmente faccio domanda e non ricevo risposta, e naturalmente quello è il primo livello in cui questo genere di notizie fanno molto male, per così dire. Basilio Rizzo, torniamo un secondo a fare il punto, secondo lei, della politica. Dovesse distinguere nella sua esperienza e dal suo punto di vista, secondo le sue opinioni, le responsabilità delle parti politiche su questo punto preciso, negli anni, nei tanti anni in cui anche lei ha esperienza politica e fa politica, si distinguono davvero per risultati o solo per dichiarazioni e denunciati, e quanto poi ai fatti concreti la grande differenza non si vede, secondo lei? Guardi, la differenza che io vedo tra gli anni passati e i recenti è che mentre allora c'era una sorta di organizzazione che faceva riferimento ai partiti, adesso è a sottogruppi di partiti e a gruppi di potere veri e propri, cioè in generale questi atti vengono messi in movimento da chi governa. Quindi se c'era un governo se governavano i socialisti a Milano erano i socialisti, se governavano, poi ha governato la Lega, se governava il centrodestra, quindi purtroppo è così. Lei dice una grande differenza, non l'ho vista, se non che prima c'erano i partiti, adesso insomma gruppi di potere. Adesso sono gruppi di potere, e mentre in passato per un certo periodo c'era un cosiddetto consociativismo, cioè che in quote diverse c'erano i partiti che governavano, che prendevano di più, ma alcune residuati arrivavano anche a partiti di opposizione, non a tutti, ma a qualcuno che era di mancato governo più che di opposizione. Lei dice di no, che non avviene. Adesso mi sembra che ognuno si tenga stretti i privilegi per le sue cerchie ristrette. Ho capito. Allora abbiamo le informazioni, pochi secondi, sulla circolazione stradale, poi chiedo a Pagliarini anche dal suo punto di vista esattamente la stessa domanda. Una news economico-finanziaria, rientro in studio, perché non solo a Milano, come 2 mattine fa, capitano gli incidenti tecnici nei momenti più delicati dei mercati, quando con la vicenda libica molti titoli italiani erano esposti a un ribasso e per oltre 6 ore per un guasto tecnico di cui non abbiamo poi appreso nulla, le contrattazioni in borsa sono rimaste bloccate. Anche a Parigi stamattina succede la stessa cosa, quindi il nocumento e il dileggio degli operatori e dei trader che si è scatenato nel caso delle 6 ore a Milano oggi è riservato a Parigi. I guasti tecnici capitano quando evidentemente i listini scendono, se perdonate la mia battuta, che naturalmente credo al fatto che il diavolo si possa nascondere nelle complessità dei computer, ma tendo sempre a pensare male. sale, quando i mercati, i momenti di discesa, pof pof pof, si fermano come una specie di vecchio PC a pedali. Torniamo al punto, Pagliarini, lei ha visto differenze negli anni di fronte al riemergere costante di vicende come quelle del Più Albergo Trivulzio di oggi, o del Rena Sarco, eccetera? Perché le differenze non ci sono, come dice Basilio Rizzo, tranne che lui nota una differenza di tipo sistemico: un tempo contavano più i partiti e forse un po' più condivisi, oggi solo centri di potere e amici degli amici. Secondo Basilio le cose peggiorano, ma la verità è che la malattia c'è e si chiama assenza di mercato. Noi abbiamo la politica, non abbiamo il mercato. Proprio esperienze personali, vedo a Berlino c'è mercato e gli affitti costano meno della metà che qui da noi. Proprio due esperienze di quando ero assessore: c'era una delibera, vendiamo le case erbe di edilizia popolare, no, ai residenti, a chi ha diritto a essere lì. Io gli dicevo: senta, lei paga 100 di affitto, io gliela vendo, e lei invece pagare 100 di affitto paga 100 di mutuo, poi la casa diventa sua, è meglio, no? Risposta: Pagliarini, grazie, ma non la voglio nemmeno se me la regala, perché io l'affitto lo pago se e quando voglio, e quindi perché devo diventare padrone di casa? Non me ne frega niente, cioè non abbiamo mercato. Ora e io, dobbiamo dire a chi ci ascolta che, siccome grazie al nuovo fondo per l'housing sociale, il Cassa Depositi e Prestiti, stanno partendo rilevanti programmi di housing sociale, cioè di edilizia popolare in aree e in città in cui l'avvaloramento delle aree aveva reso praticamente impossibile in tutti questi anni la realizzazione di progetti volti appunto ad affitti alle fasce a basso reddito, ai giovani studenti, agli immigrati e così via. Siccome ora questi alloggi sono in via di realizzazione, Parma è la più grande e la più avanti in questo, e quindi ci saranno in prospettiva decine e decine di migliaia di nuove unità immobiliari a basso prezzo in arrivo nelle grandi città italiane, e se ha ragione Pagliarini, attenzione, perché noi giornalisti dobbiamo iniziare fin da oggi a tentare di vedere con quali criteri verranno assegnate questi alloggi di edilizia popolare. Sentiamo ancora un po' di ascoltatori e poi torniamo da Bronzo e da De Dominicis. Claudio ci chiama da Venezia. Prego Claudio, queste vicende che le hanno provocato di reazione? Allora Oscar Zannino, buongiorno a lei. Io l'ho vista all'assemblea di Confindustria a Padova e ho apprezzato molto la sua... Ma venendo al punto di oggi? Il punto di oggi è questo: io sono presidente dell'Usarci di Padova e Rovigo, nonché consigliere nazionale dell'Usarci, che è un'associazione, un sindacato di agenti di commercio, l'unico sindacato svincolato da qualsiasi legame partitico. E scommetto che quindi la cosa in Asarco un po' la tocca sul vivo. Ma guardi, c'è una pseudo associazione fatta di avvocati, ex avvocati dell'Enasarco, che quando l'Enasarco da ente di Stato è stato privatizzato si è inventato un sindacato senza agenti, adesso qualcheduno sono riusciti a racimolarlo, che stanno sparando a zero sul sindacato, ed erano loro in consiglio di amministrazione che acquistavano case in pieni quartieri di Roma. Poi quando l'Enasarco era ente di Stato bastava una telefonata dal Ministero, gli servivano delle case e le davano. Quindi... è vero che l'Enasarco all'epoca sembrava un demanio della diesel, insomma, capito? E quindi oggi non mi stupisco a scoprire che ci siano dei politici, perché non ci saranno solo in Enasarco. Secondo me, se vanno a mettere le manine così come nel Pio Albergo Trivulzio, le trovano. No, ma devo dire, poi la cosa è trasversale. Oggi per esempio c'è l'altro caso di un maxi appartamento del Policlinico a Milano, all'Arco della Pace a Milano, anche lì non stiamo certo parlando di un quartiere periferico, dirigente del PD Armando Sandretti, 200 metri quadrati a 1.000 euro, quindi sicuramente è un problema molto diffuso. Io sono dell'idea che appunto il patrimonio immobiliare pubblico, tranne quando è rigorosamente a fini funzionali di istituto, è meglio nemmeno al mercato. Anch'io la penso come Pagliarini, naturalmente. Questo significa, e ha ragione Basilio Rizzo, che ha un punto di vista diverso dal nostro, ma ha ragione quando dice sì, e questo significherebbe che nel mercato della politica quegli istituti varrebbero molto meno, perché è proprio questo potere discrezionale che li avvalora agli occhi del politico. Rossano da Roma, come la pensa Rossano? Allora, buongiorno Giannino. Pronto? Dica, lo ascoltiamo. Aia, mi sa che la qualità del collegamento non è buona. Rossano? Non ci sente più Rossano. Sì? Sì, provi un po'. Giannino, mi sente? Sì, vada. Allora, innanzitutto buongiorno. Sì. Volevo raccontarle, molto in estrema sintesi, un caso effettivo che mi è capitato. Dica. Allora, io vengo trasferito per lavoro a Roma, vengo dalla provincia del Lazio, e ho problemi abitativi. Giro e mi rendo subito conto, quello che diceva Pagliarini, che c'è un gruppo, una parte consistente della popolazione che intanto non pensa minimamente di comprare case perché vuole la casa popolare, la casa degli enti, perché si risparmia e perché comunque la vede la massima fortuna che gli può capitare nella vita. Comunque io nel 2003 compro una casa da un privato che l'aveva riscattata da un ente, dalla Empaia, credo che sia, io non sono, non faccio parte di questo ente, ma credo che sia Assistenza Artigiani, sì. E dunque? Qualcosa del genere. Allora mi allega l'atto di vendita, perché deve allegarlo per la provenienza. Però vada al punto, perché se facciamo tutta la ricostruzione dell'Inter... No, velocemente, ecco. Nel 98 questo signore la riscatta e la paga 38 milioni di lire, sì. E c'è una clausola in cui dice, siccome l'abitava dal 70 fino al 98 aveva pagato circa 16 milioni, perché pagava 20 mila lire al mese, 26 mila al mese, vada al punto, e l'hanno detratto 20 milioni, gli ha dato 18. A me nel 2003 in euro gli ha dato 340 mila euro. Ecco, queste sono le fortune della gente che poi ha la possibilità di vivere in case popolari o in case di enti. Quindi vedete come sta, come è l'Italia di 102, chi poi fa veramente la persona. Va bene, e effettivamente eccetera, i trattamenti sono diversi. A me tocca anche dire, naturalmente, che Sole 24 Ore ha sentito sullo stesso tema le offerte VIP Nasarco, anche il Brunetto Bocco, il presidente di Nasarco, che è intervenuto a Radio 24 proprio, e la risposta a critiche come quella di Libero di questi giorni di Brunetto Bocco è stata che in realtà gli affitti sono determinati da accordi con i sindacati, così come prevede la legge dell'equo canone, e negli ultimi 10 anni sono stati progressivamente aumentati. Abbiamo palazzi non di pregio anche in zone centrali, e con questi immobili già da tempo alla scadenza dei contratti abbiamo cominciato ad affittarli a condizioni di mercato. Abbiamo cominciato ad affittarle. E che dice? Gliela passa questo giudizio al presidente Bocco De Dominicis? Ma probabilmente sì, effettivamente è vero, anche dalle verifiche che abbiamo fatto noi in alcuni quartieri importanti di Roma, gli affitti che vengono riscossi dalle Nasarco sono effettivamente molto più alti, anche se magari in strade molto vicine, è il caso dei Varioli, ci sono affitti a 2-3 mila euro al mese, quindi diciamo di mercato, ma in un altro stato. Quindi insomma un graduale miglioramento della qualità media, sì. Lei lo riscontra. Io francamente penso che sia una gradualità troppo insufficiente e inadeguata. Bronzo invece che dice come osservatore? In effetti io ho seguito il Comune di Milano, il progressivo adeguamento dei canoni di affitto dei negozi, è una storia recente, e anche lì erano contratti molto vecchi e c'è stata molta resistenza quando il Comune voleva portarli a valore di mercato. C'erano poi anche soggetti che facevano gli interessi dei negozianti e difendevano, certo, il loro diritto perché poi a un certo punto, sì, il basso canone, quando soprattutto si esercita un'attività commerciale, viene considerato una specie di diritto acquisito di base sulla quale ci si fa il margine. Dice, se mi adegui io smetto e devo chiudere, e dico, sì, ho capito, ma se non ti adegui al valore di mercato come la tieni in piedi questa impresa? Io aggiungo solo due cose. La prima sul social housing a Milano, l'assessore Masseroli dovrà garantire la trasparenza per il social housing di Porta Nuova, perché ha previsto per una fascia media, non solo un medio bassa di persone, un tot numero di appartamenti, e quindi ci sarà una grandissima competizione, perché dovrebbero costare per l'acquisto intorno ai 3.500 euro al metro quadrato, cioè meno della metà del valore, e quindi ci sarà una bella coda. Sì, ma è comunque, quello sarà compito nostro, tenere gli occhi aperti. Comunque io concludo dicendo, cedere. Il problema è che se constatiamo che la politica non fa differenza coi colori, perché questo è il criterio discrezionale va abbattuto, e va abbattuto in origine. I patrimoni immobiliari pubblici, visto che non vengono neanche messi a reddito bene, stanno meglio nelle mani dei privati, tranne quelli a strettissimo uso strumentale. Io la penserò sempre così, e potremo abbattere di più di 20 punti il debito pubblico italiano, pensate, cioè non è poco rispetto a chi vi dice patrimoniale mani in tasca. La mia risposta è mani in tasca sì, ma allo Stato e al pubblico che mi depreda, perdonatemi, ma come vedete sempre lì andiamo a finire. Grazie ai nostri ospiti di oggi, Linea Generale Radio, appuntamento a domani.